pensieri, senza più sentire con la mia bocca e le ali e i piedi. Dunque procediamo, senza aver paura, senza più fermate, strade in salita e cuore in pianura. Tutto è finito, da quando tutto è cominciato a splendere in giro e da quando mi dai. Perdono, mi ami lo stesso, non ricordo altro suono. Dunque procediamo, senza più domani, senza più sentieri nell'orizzonte come cambiamo. Dunque procediamo, mentre il tempo vola, per pensare l'amore a quante vite una volta sola. Tutto è svanito, da quando tu nel cielo che mi ha già fulminato è diventato un'acquabalena, perché il tuo sorriso mi rende sereno e adesso ci vedo sottendendo ancora il tuo nome. Ho creduto essere l'unica voglia sul tuo ramo. La mano con un sguardo sincero mi mostro il tuo.